abbiamo sentito il bisogno di scrivere questa lettera perché siamo un po' inascoltati, quindi si sta vedendo che l'estate prosegue, siamo un po' spaventati del mese di agosto e abbiamo un po' paura anche che si approfitti delle vacanze per procedere al disboscamento di quest'area al quale non solo siamo molto affezionati, ma siamo anche convinti che abbia una valenza ecologica per la città. Quindi abbiamo pensato di approfittare di questo momento di stasi per farci un po' sentire, per far sentire un po' anche la nostra voce, ecco. Quell'area è un'area di ex cave che si sono rinaturalizzate e praticamente ora lì c'è un piccolo bosco. Sì, più che piccolo bosco, è un bosco abbastanza grande, abbiamo già organizzato diverse passeggiate. Io insomma sono una biologa, ho fatto la guida naturalistica per tanto tempo e quindi sono stata la guida, abbiamo anche siamo riusciti ad attrarre fino a 200 persone, devo dire che siamo rimasti anche stupefatti noi stessi della biodiversità che è presente, seppur con specie non di altissimo pregio, a parte oltre una decina di querce secolari che invece hanno assolutamente un grandissimo pregio. Insomma, in questa zona si è non solo rinaturalizzata, ma c'è un vero e proprio ecosistema che ci sembra veramente allucinante pensare di abbattere, anche se poi ci hanno garantito che in quella zona, oltre ai palazzoni, lo studentato e quant'altro, verranno diciamo rimesse a dimora degli alberi, eccetera. In realtà la valenza di un bosco stabile da oltre 10 anni ci sembra che non possa essere paragonabile con nessun tipo di impianto nuovo, ecco, non solo a livello economico ma proprio a livello ecologico. Il progetto urbanistico che estensioni avrebbe? Quanti ettari, quanti metri quadri verrebbero come dire abbattuti? Si parla di l'edificazione di 158.000 metri quadri di superficie utile, di cui circa 94.000 metri quadri sono destinati a residenziale privato e insomma ci sembra ingente come... Stiamo parlando di quasi 16 ettari, insomma. Ecco, la vostra lettera aperta si apre appunto dicendo che siete attoniti e tra l'imbarazzo e lo stupore rispetto al tentativo di greenwashing operato dalla giunta. A cosa fate riferimento? Beh, sì, in realtà siamo rimasti come molti dei cittadini bolognesi colpiti da questo progetto un po', vorrei definirlo ridicolo, di mettere delle aree di refrigerio urbano con i famosi vasoni in centro, quando nella nostra area esiste un bosco assolutamente eradicato da tempo di cui è previsto l'abbattimento. Quindi questo ci sembra che sia veramente un voler fare dell'ecologismo forzato, vendendosi un po' per quello che non si è, ecco, quantomeno. Servirebbe più coerenza, ecco. Sì, insomma, più coerenza, e comunque fondamentalmente noi con questa lettera avremmo lo scopo di essere ascoltati, di essere convocati, come ci è stato promesso sia via social ma anche al consiglio di quartiere, quantomeno avere qualche data da poter scegliere per andare in delegazione e chiedere delle delucidazioni, perché sia da parte del sindaco che dalla vice sindaco ci sono delle smentite rispetto a questa lottizzazione, che pare che quei progetti che sono in mano nostra non siano fedeli a quello che succederà, ma sinceramente su quello che viene detto a voce noi penso che tutti si fidino poco, vorremmo vedere le carte, vorremmo vedere i nostri progetti. Abbiamo costruito un plastico fedele alle mappe che sono di accesso pubblico e il sindaco dice che non è fedele a quello che succederà. Noi vorremmo poter apportare le modifiche, vorremmo capire meglio cosa succede nel nostro quartiere, in cui già abbiamo gli aerei, già non abbiamo i servizi, già non abbiamo i medici, già, insomma ci piacerebbe perlomeno sapere, poi dopo vedere che tipo di azioni fare o anche insomma prenderne atto, ecco, tutto qui.